fuori senza alcun motivo. Presto! Drago! Cosa c'è? Non lo so. C'è nessun motivo. E allora? Cominciamo allora. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo Politico. Un saluto da Kappa. Un saluto da Drago. Politico. Sì, Drago, ogni oggi settimana politici. Vi terremo informati su quello che succede qui all'Asilo Italia, all'Asilo Stoppani. Sì, che tra l'altro c'è una storia vera di asilo politico, Drago. Ogni tanto appare sui giornali, no? È quella asilo di politico. Chen Guangcheng. Sì, che è un dissidente cinese che ha chiesto asilo agli americani. Va bene. Fa bene. Prima si è rifugiato all'ambasciata americana a Pechino e poi ha chiesto asilo. Però se ne parla poco. Hai detto bene prima che ogni tanto i giornali se ne occupano perché è un po' fonte di imbarazzo per tutti, per le autorità cinesi da un lato e per tutti gli altri. Ma le autorità cinesi, le quali, come sappiamo, sono padroni di mondo. E la povera bambina Hillary Clinton non era in imbarazzo come adesso, dai tempi del caso Lewinsky, anzi dai tempi de... Il caso Lewinsky. E certo, nessuno ama ricevere richieste di asilo politico dai dissidenti cinesi, e si capisce bene il perché. Se la Cina decidesse mai di vendicarsi di un paese occidentale che dà ascolto a un dissidente, semplicemente questo paese occidentale fallirebbe. Vabbè, ma in Cina hanno sempre risolto il problema dei dissidenti tagliandolo alla radice. Cioè carcere duro, rieducazione in campagna, puff. I dissidenti spariscono. Vabbè, nel caso di questo Chen Guangcheng hanno risolto tutto chiudendo un occhio e concedendogli un permesso di studio negli Stati Uniti. Permesso di studio? Sì. Scusa, Chen Guangcheng, quanti anni ha? 40, quasi 41. Ma lei quanti anni ha? 41, direi. Quasi 41. E sta ancora studiando? Ma Drago, è un bamboccione, no, altro che dissidente. Ma non mancargli di rispetto, cioè la scusa ufficiale è quella dello studio, ma in realtà non vedevano l'ora di liberarsene, nemmeno lui vedeva l'ora. È cieco. È cieco? Sì. Ma non è cinese, scusa? Sì, è cinese, ma non ci vede, quindi è un cinese cieco. Con un la dissidente cinese cieco? Sì. Ancora vivo a 40 anni? Sì, perché? Ma scusa, ma la Cina non è più quella di una volta. Ma ai tempi del presidente Mao bastava uno solo dei due gravi difetti di Chen Guangcheng per finire in qualche caserma sperduta nella Cina rurale. Ma quali gravi difetti di Chen Guangcheng? Scusa, è un dissidente, in più è cieco. Vabbè, ma dai, ma Kappa, Tito, cosa c'è? Ma parlavo di Mao, mica le penso io ste cose. Vabbè, ma scusa, Tito, il tutor non lo sa e giustamente interviene a redarguirci. Scusa. Vabbè, è peggio della censura cinese. Tito! È cinese questo? Non lo so, no, forse infatti. Da cinese. Please pass the milk, please. Please pass the milk, please. Please pass the milk, please. Chiedo io! Oh, mamma, come mi scappa! E qui devo andare a fare la pipì. So che, e se poi c'è il bidello? E c'è il bidello nuovo? Spero di no. Allora. Oh madonna, c'è il bidello. Intanto vi faccio vedere piano piano, magari non dice. Sì. Sto andando a fare la pipì, no? No. Sì, non mi scappa, me la sto facendo addosso, cioè, capito? No, la legna. No, la pipì. Adesso vengo lì, passo di lì un attimo. No. Striscio lungo il muro, vado in bagno, faccio la pipì, poi torno in classe, no? Capito? No, andare in bagno, è finito. È finito, e adesso puoi prendere, vai da letto e via, andare. Sai che qua deve essere l'eco del corridoio. No. Che non mi sfugge qualche parola. Non riesco a. No, scusa. No, ma allora forse ci sono qui per qua, cioè io devo fare la pipì, no? Mai! Non è la pipì! Non ce l'hai qui! No, ce l'hai qui, cioè nel senso che... E io la faccio... Non ce la faccio più. Non mi può dare un po' di segatura, cioè. Ma no, c'è chi mi so, mi dà una manciata di quella roba lì che non mi ricordo più come si chiama. Quella roba lì per asciugare. Segatura, quella roba. Io pensavo che lui capiva che io parlo come lei. Ma Anna. Lo facevo per vicinanza, cercavo di parlare come lei. Oggi l'Asilo Italia registra un nuovo trend, cioè picchiare i giovani. Ma come? Picchiare i giovani. Insomma, sono già abbastanza tartassati dal precariato, dall'articolo 18, da quelle robe lì. Sarà la crisi, sarà la strafottenza delle giovani generazioni, chissà cos'è, però la nuova tendenza è picchiare i giovani. Ma per picchiare i giovani bisogna essere vecchi. Ecco, basta essere più vecchi di quello a cui sganci due cartoni. Ad esempio, Delio Rossi dimostra 60 anni ma ne ha solo 52. Ma chi è? È un allenatore di calcio molto stimato e fino a qualche giorno fa era pure sulla panchina della Fiorentina. Poi, durante una partita, ha preso a pugni in faccia il talentuoso giocatore serbo Adem Ljajic, 21 anni, e adesso è andato a ingrossare le file dei disoccupati perché l'ha licenziato in tronco. Però mi sono chiesto, io ho sentito un po' eco di queste cose, pur non occupandomi mai di calcio, e mi sono chiesto, ma cosa gli ha detto il Ljajic per farlo arrabbiare così tanto? Gli ha detto? Pichka Matri, che è serbo, è opportuno non tradurre, no? Pichka Matri. Comunque il caso degli Rossi non è isolato, perché a Piacenza un 85enne ha preso a pugni e bastonate tre ragazzi giovani che volevano rapinarlo. Ma come? Ma in tre non sono riusciti a rapinare un vecchietto di 85 anni? Lui era indiavolato, ha preso a pugni uno e poi ha messo in fuga tutti e tre a forza di bastonate. Ah, aveva un bastone. Sì, quindi. Il bastone della vecchiaia, quello che serve a camminare, per camminare quando hai 85 anni, ti appoggi. D'accordo, no? Ma se poi il bastone lo usi per menare i giovani, ho come capito. Fai a reggerti in piedi? Ma che ne poi so? I meni e caschi, ma no? Non lo so. Ma perdi trend, l'equilibrio. Vabbè, ho capito, però il trend è questo, hai capito? 85 anni, prendi a bastonate tre giovani e sei a posto, capito? Vabbè, io per seguire il trend avrei anch'io qualche idea di chi si potrebbe menare qui all'asilo. Serve il bastone, ma povero bambino Alberto, so già che pensi a lui, poverino. Ma come? Dai, ma qualche cazzotto in testa tipo Bud Spencer, anzi tipo Delio Rossi, sulla testa forte, le tozze, sai? Una bella tozza, che male gli fa. Magari si fa intelligente. I fumetti alla radio. Cioè i fumetti su internet sarebbe. Però nascono da una trasmissione radiofonica, che è questa qui che state ascoltando. Stiamo quindi facendo un mishmash mediatico. Andate sulla pagina home di Radio 24, cercate anche su Facebook Chiedo Asilo e vedete i nostri fumetti alla radio in TV, web, tutto quanto. Non so, anche perché se uno si attacca con un cavo può anche vederli in televisione.